Ecco, 8.03 minuti, quindi l'orario tipico di partenza per il Voltiamo Pagina, puntuale la rubrica letteraria di oggi per salutare finalmente il mese di gennaio. È arrivata puntuale anche la nostra Silvia e Stefano, che saluto. Buongiorno, buongiorno, buon mercoledì Silvia. Buongiorno a te, a tutte e a tutti. Non trovi gennaio un mese lunghissimo? Per me è eterno. Sì, sì. Gennaio un mese eterno. Speriamo che poi ci sia una discesa dopo questa salita di inizio 2024. Certo, l'aiuto di una buona lettura è indubbiamente un coadiuvante necessario, per cui ribadisco il 333-180-9494. Ho sbirciato, non è che hai un libro misterioso oggi? Sì, sì, adesso te lo dico subito, andando avanti per diverse settimane avrò dei libri misteriosi. Ho trovato un pacco regalo con una carta veramente molto molto natalizia, così, fantasiosa. Io ho un libro molto bello invece, per quanto riguarda certo tutti i nostri libri. Mi sarebbe libri, a dire invece. No. Se esatto. È un libro misterioso, come fai a sapere che è brutto? No, non mi permetterei mai. Tra l'altro, devo dire una cosa, non so più neanche io che cos'è, perché i pacchi li ho fatti tutti insieme, quindi sapevo attenta, così. Attenta. Mi piacerebbe tanto, l'ho già detto un'altra volta, che chi riceve i libri misteriosi poi ci mandasse un messaggino dicendo: quello, ho trovato questo, quello. Sarei curiosa, ma forse anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici sono curiosi di sapere cosa c'è dentro. Allo stesso modo con Libreria Ubik, tra l'altro ieri una bellissima presentazione di Lumière, il libro che ho presentato all'interno dei magazine, ma oggi voltiamo pagina e quindi iniziamo. Vedo una copertina molto minimale nel libro invece che presenterai a breve, però insomma curiosità che resta molto alta. Di chi si tratta, Silvia? Allora, si tratta di una riedizione, cioè un vecchio libro che è stato, giustamente secondo me se lo meritava, ritradotto e riproposto da una casa editrice che io non conosco, che si chiama Orizzonti 3. Neanch'io conosco. E il libro è 84 Charing Cross Road di Helen Hanf. Non so se tu l'hai letto o hai visto il film che ebbe molto, molto successo oramai molti anni fa, un film con Anne Bancroft e Anthony Hopkins, molto bello. E il libro non è da meno, è la storia vera di una scrittrice americana che subito dopo la guerra, nel 49, si mette in contatto con una libreria londinese perché ha visto su un giornale una pubblicità in cui si diceva che questa libreria era specializzata nel ritrovamento di libri fuori catalogo. E lei voleva dei classici. In quel momento a New York non si trovavano, o meglio, si trovavano a prezzi altissimi, e lei si presenta proprio quando scrive questa lettera alla libreria come: sono una scrittrice povera. E quindi lei non poteva permettersi i prezzi di New York. E quindi manda una lettera a questa casa libreria di cui non sa assolutamente nulla se non il nome, che sta appunto all'84 di Charing Cross Road. Charing Cross Road è la strada delle librerie a Londra e lo era molto di più ai tempi in cui si svolge il romanzo, era tutta piena di librerie, adesso lo è ancora ma in parte minore. Soprattutto librerie antiquarie, non esistevano allora le librerie di catena, librerie di seconda mano e cose del genere. E lei manda questa letterina che è tutto meno che una lettera commerciale. È una lettera dove in poche righe dice appunto: sono una scrittrice povera, ho visto il vostro annuncio, vi allego una lista di libri che sto cercando, però se questi libri li avete a meno di $5 l'uno, considerate il mio messaggio come una richiesta, come un ordine. Certo. Altrimenti lasciate perdere. e naturalmente dalla libreria le risponde un addetto e comincia in questo modo, che le dice quali libri ha e quali non ha eccetera, lei a sua volta risponde, a questo modo comincia una corrispondenza che durerà 20 anni. Nel corso di questa corrispondenza, che è esattamente riprodotta nel libro, nel corso di questa corrispondenza i due chiaramente poco alla volta si raccontano le loro vite, o lei soprattutto racconta di se stessa, che è sola, che è una donna molto con un grandissimo senso dell'umorismo, per cui questa sua vita tutto sommato abbastanza monotona la racconta in modo divertente e piacevole, e lui le risponde parlando di cosa succede a Londra in quel periodo. Ricordiamo, il romanzo comincia nel 49, Londra è a Londra c'è ancora il razionamento che andrà avanti fino quasi alla metà degli anni 50, quindi i londinesi, gli inglesi non hanno a sufficienza cibo da mangiare. E è una situazione di estrema povertà, forse a un certo punto si ha l'idea che sia ben più povero lui tutto sommato della stessa scrittrice oppure sono pari, e tant'è che man mano che questa amicizia va avanti non solo lei compra i libri che le occorrono, ma a un certo punto per Natale manda un bel pacco pieno di vettovaglie, di roba da mangiare, un aiuto concreto e per tutti gli impiegati della libreria, perché poco alla volta lui racconta chi lavora con lui eccetera, e lei si comporta come se li conoscesse, e così la situazione va avanti per una ventina d'anni. Il libro si chiude nel 1969 e lei racconta delle commedie che sta scrivendo, dei libri che sta portando avanti, delle difficoltà che ha a pubblicarli. Ti ripeto sempre però su una base di assoluta leggerezza e profondo senso dell'umorismo. E anche una grande umiltà, perché parla di prezzi ridotti. Sì, se sì, è possibile. sì, certo. E più volte lei desidererebbe, a un certo punto la sua massima curiosità, il suo massimo sogno sarebbe andare a Londra a vedere di persona questa libreria, però prima non ha i soldi, quando a fatica è riuscita a mettere a parte i soldi accadono sempre degli imprevisti, non ultimo un imprevisto di cui il nostro notaio è molto a conoscenza, è pratico di questo imprevisto, sì, cioè un grosso lavoro dentistico che le costa veramente tutti i soldi che aveva risparmiato per il viaggio, e quindi insomma questo viaggio non si concretizza mai, tant'è che quando degli amici vanno finalmente riescono ad andare a Londra, lei dice la frase che poi è riportata in copertina: se ti capita di passare per l'84 di Charing Cross Road, porti un bacio per me, devo tantissimo a quel negozio. E poi niente. Beh, è un bel regalo che stiamo facendo, è un po' un manifesto anti-litteram dedicato alle librerie indipendenti. Infatti, senza bello. Dubbio. E questo è un libro che al quando uscì, ti ripeto, non c'erano, se non ci sarà stato Barnes & Noble a New York, ma non c'erano grandi librerie di catena. Questo veramente è rimasto famoso, proprio è un libro di culto per i librai, soprattutto. Immagino. E il film ebbe un grosso successo, credo che l'abbiano riproposto anche di recente in Cineteca, perché era molto molto molto uno di quei film anche commovente, ma soprattutto molto aggraziato, molto di quelli adesso gli americani direbbero feel good, da cui esci sentendoti good vibe, bene con buone vibrazioni. Non ovviamente non ti dico come finisce la corrispondenza, dicevo, si chiude nel 69. Lei riuscirà poi alla fine andare a Londra. Ti volevo chiedere questo. Ma lei va a Londra, ma ti dico solo questo: non so per quale motivo la casa editrice, giustamente, questo è il libro 84 Charing Cross Road, però se tu lo cerchi in Inghilterra o in America, l'edizione anglosassone presenta in fondo anche il seguito, perché lei poi scrisse un seguito dove raccontava il suo viaggio a Londra, che si chiama La Duchessa di Bloomsbury. E che è un diario, tenne un diario di tutti, non so quanto tempo passata a Londra, dei giorni passati a Londra, che è un altro librino come questo, per cui insieme fanno un libro di misura normale. Ma quante attinenze che anche con il mio lavoro, e poi ti spiegherò, un po' inquietante la cosa, comunque. No, te le racconto poi in seguito. Per cui ieri, quando così preparavo le cose, non riuscivo a capacitarmi che questo libro fosse così sottile e in la mia versione originale inglese così grossa. E poi ho scoperto che in effetti qui manca l'altro libro, insomma, che del resto è un altro libro a parte, era uscito a parte. Certo, però magari lo pubblicheranno, chissà. Ma chissà, a questo punto sarebbe interessante, perché anche il film si chiude. Questa è il film. Okay, anche il film si chiude qui. Si ferma lì. Okay. Si ferma qui. Mentre lei poi appunto pubblicò il diario del suo arrivo a Londra, anche perché nel frattempo, quando lei finalmente arrivò a Londra, il libro era già uscito e aveva avuto un buon successo, e quindi lei venne accolta proprio con tutti gli onori, diciamo. Ha dato una bella spinta alla libreria, voglio dire. Alla però. Libreria e a tutto. Che infatti il viaggio le fu pagato poi dall'editore per pubblicizzare il libro, che stava andando benissimo già in America. Intanto, fra le attinenze, questa la posso dire senza svelare tanto, il 1949. Ecco, l'anno è lo stesso di uscita del lavoro che presenterò a breve, è identico. Quindi, insomma, questa è una. Un'altra è il famoso gruppo del Bloomsbury, che questi intellettuali progressisti, borghesi, però assolutamente con delle idee anche sull'orientamento di genere, sul diritto di amare, una visione. Sono stati, posso dire, la prima comune anche forse. Sì, vabbè, non vivevano insieme, ma però molte cose erano così parallele all'idea. Diciamo che avevano delle idee abbastanza aperte per avanti. Ed erano anche tanto snob, però. Oh, incredibilmente snob. Mentre, ecco, lei il secondo libro lo chiama appunto La Duchessa di Bloomsbury, perché la alloggiano in un albergo a Bloomsbury. E qui apro una parentesi: io mi divertì moltissimo quando lessi quel seguito, perché per un certo periodo io quando andavo a Londra. Andavi lì? No, ma magari andavo in un alberghetto che era esattamente di fronte. Lei l'avevano messa al Kenilworth, che era un signor albergo, adesso ha cambiato nome, non mi ricordo come si chiama, ma era un albergo di quelli a molte stelle, diciamo. No, io andavo in uno di quegli alberghetti popolari di fronte. Non sei snob. No. Non c'ho i soldi, più che altro. Okay. E lei stessa non era snob, per cui nel libro, lei lo dice ironicamente, la duchessa di Bloomsbury, perché il Kenilworth, l'albergo, era a Bloomsbury. E lei proprio si sentiva l'esatto opposto, certo, di queste signore di Bloomsbury. Non era snob, non era un'americanazza, proprio di quelle americane. Allora no, Se è americana, ok. Certo. Allora questo già è un limite importante, però ok, abbiamo voluto citare anche questo gruppo, di cui faceva parte però Virginia Woolf. Certo. E tanti altri autori, certo, assolutamente importanti e ispirati. E facciamo uno stacco musicale, visto che hai portato i Talking Heads. Sì, aspetta, ti spiego un attimo. Abbasso allora. È molto strana la playlist, sembra strana, di oggi. Visto che parliamo di libri, questo libro parla di libri, lei cercava soprattutto dei classici, eccetera, ho portato tutti i dischi in cui ci sono degli autori contemporanei interpretano delle poesie o dei brani classici, oppure poeti che cantano. Vedremo. In questo caso i Talking Heads aprono la nostra playlist. Senti, sì, perché ritmo, questa è una poesia. Così ci svegliamo. Che ritmo incalzante. Oh, questa, sì, questo è stato campionato più volte, bellissimo. Lo so. Thank you. gioia dei DJ, tutto il movimento punk, funk, no wave, da cui Certain Ratio, ESG, Liquid Liquid e ovviamente i Talking Heads. Allora, a chi devo ringraziare, il notaio o Silvia? No, questa è tutta farina del mio sacco. Ah, grazie Silvia. Mamma mia, da qui questo... sono partiti non so quanti brani house, tech house, da questo quattro quarti, meraviglioso. Questa, dicevi, è una poesia. Sì, poesia. È una poesia sì, non sono tutte parole che non voglio dire niente, ed è una poesia da di un poeta chiamato Hugo Ball, del 1919, che si chiamava Gaggi Beri Bimba, che non vuol dire niente. E loro l'hanno messa in musica così. Ma senti che bello, me lo tengo come base. Posso? Ah, tienilo pure. Questo è il mio disco dei Talking Heads preferito, è Fear of Music, è veramente, per me è eccezionale. Bene. Tutti dicono che il capolavoro è Remaining Light, ma io preferisco questo. E sai che, per stare in ambiente, in argomento letterario, e uno dei miei scrittori preferiti, Jonathan Latham, sì? Ha scritto un libro su questo disco. Addirittura? Sì, tutto un libro, ogni capitolo dedicato a uno dei brani di questo disco. Che tra l'altro sto ascoltando, è meraviglioso, con la voce di David Byrnes, questo genio assoluto, insomma, collaborazioni con diversi altri artisti, ma ovviamente se iniziamo a parlare dei Talking Heads arriviamo ben oltre. È un bel incontro tra musica e letteratura nella playlist che potete trovare in calce, questo termine in calce, un po' desueto, ma mi piace utilizzarlo così, in penseranno calce. Che sia, ci sia una mano di calce sopra, che siamo sopra diventati il video. Dei manovali, dei muratori, dei manovali, hai capito, al nostro video che dopo la diretta porteremo sul sito www.radiocittafugico.it. un libro che si legge in poche ore, sì, un paio d'ore, veramente che... sono, ti dico quante pagine sono 108 pagine. Altra attinenza con il lavoro che vi porterò a breve. Non conoscevi la casa editrice? No. Non la conosco neanch'io, fra l'altro, però onore al merito per questo manifesto romantico, mi permetto di aggiungere, sì. Anche se misurato, sarebbe non stato sdolcinato, no, ecco. Perché sarebbe stato molto mieloso, melenso, se tra i due fosse sorta una storia d'amore. Ma storie d'amore ci penso io, non ti preoccupare, quelle sono compito mio, ne avremo modo di parlarne tra poco al Voltiamo Pagina. Intanto ripetiamo: autrice, titolo, casa editrice. Helen Hanf, 84 Charing Cross Road, Orizzonti 3, la casa editrice. 1949. No, 49 inizia, sì, il libro. Ok, però è una data con cui posso collegarmi. Voglio vedere quando è stato pubblicato la prima volta, se c'è scritto. Nel 73 Ma è uscito, certo, la prima volta. Che sia arrivato più tardi, questo è ovviamente conseguenziale a tutto ciò. Libro misterioso in palio dopo il quiz che tu hai già preparato? Sì. Oh, ok, allora direi che possiamo partire con il quiz. Però ti chiedevo una cosa prima, sì. Silvia, hai degli appuntamenti questa settimana? O la prossima, no. Di presentazioni e quant'altro? Dunque, no, la settimana prossima parte, come tutti sanno, perché c'è il vostro spot, la sì, mostra di Pinocchio. Certo, ne parleremo sala domani. Borsa. Ne parli, no, in mostra. Io la prima cosa che faremo, riprendiamo in sala borsa gli incontri con Gino Scatasta sulla cultura inglese. Ok. Abbiamo fatto già gli anni 60, l'anno scorso gli anni 70, quest'anno ovviamente facciamo gli anni 80 e partiamo il 12 febbraio. Vabbè, mica alle 18. Tanto in là. No, non tanto mica in là. Mica tanto in no. Là. Avremo modo di diffondere anche questo motivo di incontro e adesso non rubo altro spazio per questa bellissima colonna sonora che ovviamente non termina qui. Io sono molto curioso di ascoltare anche il prossimo brano e aggiungo, è il momento del quiz al 333-180-9494. Vai Silvia! Dunque, abbiamo detto che la strada dei librai a Londra è Charing Cross. A Parigi invece i librai che vendono libri di seconda mano oppure libri rari, un po' antichi eccetera, stanno sui bordi della Senna, stanno con le loro bancarelle sulle rive della Senna e hanno un nome. Come si chiamano i librai che tengono le bancarelle sulle rive della Senna? Come si chiamano i librai che tengono le bancarelle sulla riva della Senna? È la Rive Gauche? No, non c'entra. Tutte, niente. Anche la Rive Gauche. La Rive Droite. Sulle rive della Senna. Ah, ok, perfetto. Quindi avete possibilità, se andate a Parigi, non importa. La è una delle prime cose che ti insegnano quando impari francese a scuola. Sì, per pensavo che fosse una cosa molto difficile, invece. Io non lo so. Cioè, se uno ha studiato francese a scuola lo sa, se no non lo sa. non ho studiato, punto. Non ho studiato francese, è una specificità aggiunta, ma non ho studiato, punto. E Rufus Wainwright. Rufus Wainwright? È il disco in cui ha messo in musica una serie di sonetti di Shakespeare, quindi quello che ascolterete è un sonetto di Shakespeare cantato da Rufus Wainwright. Tanto rispondete 333-180-9494, i librai sulla riva della Senna, chiamati come? All, what hast thou then? certamente il mio idolo, però tanto rispetto per Jack Kerouac, che giustamente tra musica e poesia hai voluto portare in questo lavoro su CD mentre legge il capolavoro. No, scusami, questo è... Non so perché anche noi lo so, anche noi abbiamo fatto questo errore. Il disco si chiama Jack Kerouac Reads on the Road. Cosa devo capire? Devi capire che se leggi in fondo, questo è Tom Waits insieme ai Primus che canta un pezzo di... Ah, non è Jack Kerouac. No, questo è Tom Waits. Gli piacerebbe a Jack Kerouac cantare così. Anche questo, in effetti. Anche questo, in effetti. Questa voce graffiata è già... Comunque, Gaudium Magnum, in casa Calanchi Albertazzi è arrivato il giradischi. Anche questa è una notizia importante, quindi avremo selezioni anche in vinile. La playlist musicale continua e arrivano anche le risposte, tantissime risposte. Non sapevo, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori che giocano con il voltiamo pagina, allo stesso modo mi accresco culturalmente in lingua francese. Bouquiniste, non so se l'ho pronunciato bene. E quindi risposta esatta per quanto riguarda Dino, che da un po' che arriva secondo, insomma è anche giusto premiarlo. Arriva primo Andrea, però mette Escrivain. No. Poi scrive la risposta esatta anche Luigi, scrive la risposta esatta anche Paola, anticipata da Dino. Scrive anche Jarno, che ha già vinto il lavoro di domani sera al binario, e quindi lo porteremo magari in una prossima puntata. E intanto grazie. Scrive anche Paolo, che definisce questi, diciamo, romantici figuri intenti in una vendita molto particolare, come essere librerie indipendenti sulla riva della Senna, li definisce i solfanai. No, non sono i solfanai. No. Lo vedi te il solfanaio che gira con il carré? Solfanaio! Quando eravamo bambini, tu in Via Azzurra, poi chissà quante volte l'hai sentito. Solfanaio! E indubbiamente non è che portasse grande letteratura, seppur lavoro indubbiamente più che rispettabile. Anzi, saluto tutti i solfanai, anche se a Bologna non è esattamente... È uno che raccoglie tutto il solfanaio, è spesso preso con questa definizione. Quindi complimenti a Dino dalla Bolognina, che si porta il lavoro presentato da Silvia Albertazzi. Che Dino, porterò... per sì. favore, ci fai sapere cosa c'è dentro, che non me lo ricordo più. Dino, hai capito? No, ha ragione. Quindi vai alla Ubic e prenditi questo pacco, che non è natalizio, anche se è molto colorato. Però dai, scrivi quello, perché non se lo ricorda neanche lei, hai capito? Oh, lavoro di marcolliana memoria, questo sì, questo è un lavoro di marcolliana memoria. Ricordate, co-redattore Alex Marcolla per il Voltiamo Pagina, ecco, questo indubbiamente sarebbe un libro che poteva essere presentato da Alex. Lo ritrovo con Astoria, ho già dato l'indicazione del 1949, lei è un'autrice con opera prima e opera unica, e per quanto riguarda l'aspetto di lavoro primo c'è anche un sentimento primo, che ovviamente è l'amore. È un amore saffico, è un amore omosessuale, è un amore dichiarato a gesti, a parole, è un amore che si intende in maniera assolutamente forte e delicata al contempo. È un romanzo che vede una prefazione che è un romanzo stesso, perché si dice che questo lavoro ne abbia ispirato un altro, che mi direte voi appunto al 333-180-9494. Ho letto Olivia moltissime volte, l'ho regalato a moltissimi amici e lo considero l'ispirazione per Questa è una fascetta che avvolge la copertina di Olivia di Dorothy Strachey di André Achiman. Quindi mi direte il titolo di questo lavoro, che è stato tradotto anche in un film, è stato portato più volte come manifesto per quanto riguarda la storia d'amore omosessuale da André Achiman. Se mi dite il titolo di questo libro e di questo film che uscì per Wanda, per voi ovviamente tramite Ubik, Dorothy Strachey, Olivia. Allora, una delicata, inebriante, anche scandalosa, ma modernissima storia d'amore. Non immaginate, ovviamente, come ben sapete, il mio gusto porta le storie d'amore su un piano, per così dire, più elevato, ma questo è un gusto personale. Qua è la scrittura, è la storia, è la bellezza, è il dialogo, la riflessione sull'aspetto fondamentale che è il sentimento. L'introduzione, come vi ho detto, la prefazione, per meglio dire, di André Achiman è bellissima, e quello che troviamo nelle pagine che portano la figura Olivia su una ribalta che la vede in un collegio femminile dove la direttrice, figura carismatica, improvvisamente rivela l'identità della stessa protagonista, in quanto si innamora subito, immediatamente, di questa importante presenza. È un collegio in Francia dove la borghesia inglese spesso portava rampolli e rampolle per affinare la cultura umanistica e non solo queste giovani e giovani, e il lavoro di Dorothy Strachey ne dà, in maniera anche autobiografica, se vediamo e se vogliamo, qualcosa di non detto, di atteso, in realtà di mai svelato e mai concretizzato, ma tutto ciò aumenta ulteriormente l'intensità per il lavoro che vi sto presentando. Un lavoro che, come ho detto, mette l'amore in primo piano, parole che sono di contenuto forte, ma dal punto di vista del cuore, non tanto dal punto di vista, ovviamente, di uno svolgimento carnale, che non ci sarà mai, fra l'altro, ma che resta sempre e comunque come una prima volta. Tante cose sono discutibili, se vogliamo, per le affermazioni forti della Strachey, che dice e afferma: si ama una volta sola nella vita, la prima. Ecco, qui è un motivo, insomma, per quanto riguarda il sentimento, di approfondimento e di così interno dibattito sentimentale che costantemente si è chiamati a rispondere leggendo questo breve romanzo. Romanzo che è stato respinto da André Gide, che non ne voleva sapere di pubblicare, lui amico della Strachey, e non ha voluto saperne. Scusa, perdona. Strachey. Grazie Silvia. No, scusa. Per me è impronunciabile questo nome, Strachey. No, okay. Io chiedo scusa perché non è bello correggere qualcuno, no, mentre parla. Fai bene. Ma è una deformazione professionale. No, ti capisco e fai bene, perché per me è impronunciabile questo nome. Ne approfitto per dire che ho fatto anch'io un errore. Ecco. La casa editrice non si chiama Orizzonti 3 del mio libro, ma si chiama Bordo Libero. Orizzonti... Beh, questo è uno sbaglio un po' più, non di pronuncia. Ecco. Orizzonti 3 è la collana, solo che siccome hanno messo il nome della casa editrice in alto, io ho letto quello che c'era in basso. Vabbè. No, dicevo che il lavoro di Dorothy Strachey è riportato da Storia Edizioni, e come appunto portato all'attenzione delle ascoltatrici e gli ascoltatori, è un continuo dialogo con il sentimento e anche le nostre emozioni e la nostra quotidianità emotiva. È scritto divinamente. Lei scriverà solo questo libro, è il 1949, lo porterà 15 anni dopo a André Gide. L'ho pronunciato bene, è scritto Gide? Sì, sì, sì, è scritto benissimo, bene. André Gide. André Gide, ha anche la R con deformazione di pronuncia che va. Ce l'hai già pronta. Sono avvantaggiato, ecco, in questo caso. che ha il merito o il demerito, lei poi lo ricorderà, perché dopo 15 anni dà il lavoro che viene rifiutato, come allo stesso modo prima aveva rifiutato un certo Marcel Proust. Con la ricerca lo prenderanno altri editori, si ritroveranno poi, siccome c'era un'amicizia tra la Dorothy e André Gide, e allo stesso modo diranno: vedi, io ho un primato, gli dirà Dorothy, io ho il primato che sono stata rifiutata insieme a Proust, e quindi è un motivo di essere, sì, sono stata scartata da te, però dai, è stato scartato anche Proust, quindi insomma me ne farò una ragione. No, è un lavoro che, come vi ripeto, mi ha colpito tantissimo, è una delicata confessione tra l'innocenza della giovinezza, chiaramente scritto in seguito, anche perché, come dice il mio autore italiano tra i preferiti, Francesco Permugnan, le storie di sentimento e di emozione bisogna scriverle da dopo qualche anno, perché altrimenti le lacrime potrebbero pasticciare l'inchiostro che scrivete sul foglio e renderebbero incomprensibile la narrazione che volete comunicare alle lettrici e ai lettori. E confermo, concordo, a distanza di 15 anni scriverà e porterà a pubblicazione questo lavoro, di cui l'introduzione di Andrea Aciman è veramente un romanzo nel romanzo. Lei aveva 4 sorelle e 5 fratelli, una famiglia numerosissima. Lytton Strachey è del gruppo Bloomsbury, uno dei famosi fondatori del gruppo Bloomsbury, di cui lei stessa faceva parte. Lei tra l'altro era anche una suffragetta, ecco, quindi un'attenzione particolare per tutto quello che è il diritto per le donne. Questo lavoro con la collana vintage di Astoria aggiunge indubbiamente una perla di bella scrittura e di grande sentimento. Le parti in narrazione suddivise da anche motivo di riflessione, come ho già detto, perché vi dà il tempo. Certo, è un libro di 160 pagine, ma avrete modo, come piace a me, di interrogarvi tra una pagina e l'altra. È un libro che va letto lentamente. Io me lo sono veramente gustato ed è stato una grandissima sorpresa. Le parti, come vi ho detto, in cui interroga allo stesso modo, senza farlo esplicitamente, il lettore più sensibile, sono molto interessanti. Questa storia d'amore, nonostante l'offerta di un dolce, l'offerta di una visita in camera, lei non andrà mai a visitare la direttrice di questo collegio, ma ovviamente le fa intendere che non se l'è sentita di farlo per timore, ma nello stesso tempo con un grande dolore a distanza si dichiara, e la risposta sarà stupefacente e la lascerò ovviamente leggere a voi. Vi ho parlato di un altro André, che è André Aciman, e vi leggo l'ultima parte della sua prefazione, perché mi ha veramente, adesso se riesco a ritrovare, eccolo qui. Anni dopo, di nuovo a Roma, ero tornato in via del Babuino al Lion Bookshop, dove avevo visto Olivia per la prima volta, ma la libreria era sparita. Mi avevano detto che si era trasferita in via Belsiana, anche là però il Lion Bookshop non c'era, chiuso per sempre. Quella sera, mentre passeggiavo con un amico in via Belsiana, camminando sui San Pietrini luccicanti per la pioggia, avevo pensato che un giorno avrei scritto un romanzo come Olivia. E come l'avrei intitolato? All'epoca la risposta mi era sembrata ovvia. L'avrei chiamata Oliver, ma poi invece ho cambiato idea. E come l'ha chiamato questo lavoro? E per voi la risposta, da cui è stato tratto anche un film, da André Aciman, se mi date risposta poi del lavoro, del titolo del lavoro, successo, grande successo di André Aciman, per voi Olivia di Dorothy Strachey, edizioni Astoria. È stato chiaro il quiz? Sì. Chiarissimo. Ah, grazie. No, perché, allora io quasi quasi lancio il brano, anche semplice mi sembra, Sì, anche a me sembra molto facile. E quindi aspetto la adesso risposta. Adesso abbiamo 333-180-9494. Ok, scusa, so che ci tieni a presentare. No, volevo solo dire, abbiamo un poeta che canta, Vinicius de Moraes con la Samba delle Benedizioni. Cosa che esiste è così come un sole dentro il cuore. Ma se vuoi dare a un samba la bellezza, hai bisogno di un poco di tristezza, hai bisogno di un poco di tristezza, se no non è vero un samba, no. Se no è come amare una donna solo bella. Ebbene, una donna deve avere qualcosa in più della bellezza, qualche cosa che piange, qualche cosa che ha malinconia, un'aria di amore tribolato, una bellezza che viene dalla tristezza di sapersi donna, fatta soltanto per amare, per soffrire d'amore e per essere solo per donna. Fare un samba non è una barzelletta, chi fa samba così non è poeta, il samba è preghiera, se lo vuoi. Samba è la tristezza fatta danza, tristezza. Beh, hai portato involontariamente una colonna sonora per il mio libro. Sì, se vogliamo anche. Bene, questa intersezione. Allora concludo dando risposta. Come l'avrei intitolato? Dice in questa. Allora, le prefazioni. A volte come affronti tu le prefazioni? Io sempre un po'. Io le leggo alla fine. Molte volte anch'io poi le non trascuro. Le leggo mai prima. Prima del... difficilmente. No, mai. Ok, perfetto. Anche in questo siamo allineati. La prefazione di Aciman, in questo caso, veramente è stupenda. È un romanzo nel romanzo. E lo rileggo nelle ultime righe. Avevo pensato che un giorno avrei scritto un romanzo come Olivia. Come l'avrei intitolato? All'epoca la risposta mi era sembrata ovvia. L'avrei chiamato Oliver, ma poi ho cambiato idea e l'ho chiamato con un altro nome. Chiamami col tuo nome, grande Paola. Tu hai vinto il lavoro di Dorothy Strachey, Edizioni Astoria. La collana è vintage, lo puoi ritirare alla libreria Ubic in via Irnerio 27, ovviamente a Bologna. D'amore nella tua vita. Come nel tuo sangue. Chiamami con tuo nome, il lavoro di Aciman. Siamo arrivati al termine, Silvia. Bene. Bene, noi ci vediamo. Io faccio un po' di lavoro qua in regia per dare spazio alle Dipen Enciclopedico e poi Liberi Dentro sarà anticipante la rassegna stampa curata condotta da Alfredo Pasquali. Parleremo di cinema d'autore con Piero Di Domenico. Ogni tanto intratteniamo così questo momento di conversazione. Poi vorrei fare un fuori onda anche sui discorsi che saltano fuori con un Alfredo un po' seccato da questi film pakistani che vengono ripresi nel cinema d'autore, nelle conversazioni tra Piero Di Domenico e Silvia Albertazzi, che ritroveremo mercoledì prossimo. Il Rock Live di Nevio sarà protagonista fino alle 12:30 e domani con Art City torneremo in mostra sempre qui su Breakfast Club di Radio Città Fusico. Questo è Ungaretti, attenzione. Ci salutiamo con Ungaretti. Ci salutiamo con Ungaretti. Appuntamento a domani. Ciao. Ok, ciao. Scura, grande angustia, gli faccio angustia. Chi sono io se non quell'albero imponderabile dentro la notte ferma con quegli appigli che risalgono al fondo più triste della terra?